all'ultima pagina dell'ultimo atto, la dolorosa memoria che Romano Mussolini dedica al padre, in una lettera scritta alla sorella Edvige, Benito, fra il poco d'altro che nei momenti drammatici si può dire, dice: «Ho fatto molte citazioni nella mia vita parlando e scrivendo, e si dice che alcune fossero inesatte. Ne farò ancora una esatta, come dice Amleto. Chi non cita per contraddire, cita in cerca di un'autorità che lo sostenga nella propria argomentazione. Si fa trasportare sulle spalle di qualche gigante di passaggio nel popoloso mondo dei suoi valori. Chi si sente fortissimo, fortissimo, fortissimo, non cita nessuno. È così sicuro delle proprie opinioni che non ha bisogno di alcun supporto. Ma ci sono scrittori che, pur avendo di sé alta opinione, citano ugualmente a piè sospinto, perché ritengono che comunque la capacità di citare sia già di per sé un attestato della propria dignità, e che i citati tutti noti, tutti intelligentissimi, tutti amati, i citati costituiscono una compagnia dalla quale lui stesso meriterebbe di venire cooptato, no? Ciò nonostante, in una indagine riguardante un articolo metodologico prodotto da un solo autore che aveva ricevuto 10.000 citazioni, perché le citazioni si ricevono come assegni di moralità, aveva ricevuto 10.000 citazioni, è stato riscontrato che la sua citazione è avvenuta in 300 modi diversi, corrispondendo a più di 2.000 su 10.000 citazioni sbagliate, più di un quinto. Il libro che ho sott'occhio consta di 209 pagine e contiene più di 2 citazioni a pagina, e parlo delle citazioni esplicite, perché per esempio anche dire che non so, un giorno di solitudine sembra lungo 100 anni, ecco, oltre che una sicura sciocchezza, è una sorta di citazione, perché vi traspare fin troppo chiaramente il titolo di un famoso romanzo di García Márquez, no? I 100 anni di solitudine, quello pubblicato nel 67. Se a quelle esplicite dunque si dovesse aggiungere le citazioni implicite o quelle involontarie, arriveremo ad una quota intorno al migliaio. Tante, troppe per un libro che non ne contesta neppure una, troppe per non pensare che queste citazioni, più che dalle buone letture dell'autore e dalla sua ottima memoria, non siano tratte di peso da qualche antologia specializzata in cui le citazioni, fior da fiore, siano già belle incolonnate, decontestualizzate e pronte all'uso in una catena di montaggio del ben pensare socialmente ratificato. Già qui allora qualcosina da dire ci sarebbe, ma avventurandosi in questa giungla e armandosi di santa pazienza, prende corpo ben presto tutt'altro problema, perché la maggior parte di queste citazioni è rigorosamente sbagliata, non solo nel senso che non è affatto necessario, non so, far dire a Francesco Bacone che sapere è potere, visto e considerato che prima di Francesco Bacone l'avranno pensato e detto qualche miliardo di persone, compreso il lustrascarpe di Francesco Bacone medesimo, ma proprio nel senso che l'autore è stato tirato in ballo per affermare una cosa, mentre in realtà ne aveva affermato tutt'altra. Faccio un esempio, ad un dato punto in questo libro si ricorda come Erodoto racconti che i capi tribù dell'Illiria requisivano le ragazze, mettevano all'asta le più belle e davano ricavato in dote alle più brutte. Ora, se si ha la pazienza di andarsi a pescare il capitolo 196 del primo libro delle storie di Erodoto, si può leggere invece quanto segue. una volta all'anno in ogni villaggio si faceva così. Conducevano in un unico luogo allo scopo di riunirle tutte le ragazze che si trovassero in età da marito e intorno ad esse si radunava una folla di uomini. Poi un araldo le faceva alzare in piedi una per una e le vendeva. Cominciava dalla più bella. Poi, quando questa aveva trovato un generoso compratore, metteva all'asta la seconda per bellezza. La vendita si faceva a scopo matrimoniale. I babilonesi, benestanti in età da prendere moglie, superandosi a vicenda con le offerte, si acquistavano le più graziose. Invece, gli aspiranti mariti del popolo, che non badavano all'estetica, si prendevano le ragazze più brutte e una somma di denaro. Infatti, quando il banditore aveva terminato di vendere le più belle, faceva alzare la più brutta oppure una storpia se c'era e la offriva a chi accettasse di sposarla con il compenso più basso, finché la ragazza veniva aggiudicata a chi si accontentava della somma minore. Il denaro derivava dalla vendita delle ragazze avvenenti. In questo modo erano le belle ad accasare le brutte e le menomate. Così Erodoto che peraltro sta parlando di un'usanza dei babilonesi e che soltanto fra parentesi aggiunge che gli è stato riferito essere l'usanza anche fra i veneti dell'Illiria. Nel libro che ho sott'occhio, la citazione di Erodoto, che avrebbe potuto servire a mille usi, ma soprattutto per evidenziare la simmetria dei rapporti di classe e di genere, nonché la viltà con cui gli intellettuali tentano di nascondere questo stato di cose, si pensi ai mariti del popolo, no? Che essendo del popolo non avrebbero badato all'estetica. Serve invece per dimostrare tutto ciò che in ogni squadra che si rispetti c'è posto sia per i protagonisti che per i comprimari. Una sorta di rivisitazione in chiave sportiva della favola degli allegri cooperanti di Menenio Agrippa. Guardo allora le citazioni sbagliate con un'attenzione maggiore e mi rendo conto che l'errore, nel caso di Erodoto come in tutti gli altri, l'errore ha un senso, anzi, più che un senso, una direzione, sempre quella. Le citazioni sbagliate non sono così innocenti come potrebbero sembrare, ma per quanto errori risultano perfettamente funzionali alle opzioni ideologiche dell'autore. Non c'è solo l'ambizione di autorialità nel profluvio delle citazioni tirate in ballo, ma c'è anche una manipolazione fino all'erroneità che mira invariabilmente verso il basso, dove il pensiero altrui viene semplificato, superficializzato, facilitato, edulcorato, banalizzato. In altre parole, allora, sbagliando la citazione si costruisce una storia del pensiero umano dove chi ci precede è sempre alla portata di chiunque, esattamente come chiunque può giungere alla conclusione che nella vita è sì sapere e potere, ma sapendo che è stato Francesco Bacone a dirlo per primo, si consola nel trovarsi in augusta compagnia. E dove anche chi ci precede è stato così lungimirante da pensare e dire qualcosa che potesse accomodare i nostri problemi attuali in 4 e 4 8. Dannatamente infestata di ideologico è allora perfino la citazione di un ex calciatore, ora allenatore, di nome Scala. Si chiama Nevio, ma nel libro che ho sott'occhio, ossequioso verso i numi benigni degli Olimpi trascorsi, addolcendo i tratti rudi del centrocampista con il tenero ovale di una stella dello spettacolo, Nevio è diventato Delio, come Delia Scala. In una pagina del libro che ho sott'occhio, Pablo Neruda confidava alla sua amante che tra tutti gli esseri solo tu hai il diritto di vedermi debole, Una ventina di pagine più avanti, lo stesso Pablo Neruda diceva alla sua donna: non mi hai fatto soffrire, ma attendere. Io voglio sperare che Neruda si sia risparmiato queste frasi da cioccolatino perugina, ma vorrei anche che qualcuno mi spiegasse se la sua interlocutrice è sempre la stessa o no. Ecco, perché se nel passaggio da amante a donna costei in dignità personale ci abbia perso o guadagnato, o se piuttosto il passaggio da amante a donna non significhi semplicemente che non avesse più niente da perderci. Anche qui chi la racconta sta dalla parte dei ben pensanti. Consapevolmente o meno rappresenta il potere e parla di conseguenza. Utilmente. Il resto è silenzio, come concludeva Mussolini citando l'Amleto, e finalmente azzeccandone una.